Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La sindaca o la ministra diventano delle provocazioni. Allora, questo denota un blocco culturale, perché l'Accademia della Crusca, che è la nostra più importante istituzione linguistica, ha fatto anche una pubblicazione, ha pubblicato delle linee guida per il linguaggio di genere nelle amministrazioni pubbliche. E ha detto una cosa molto semplice: chi non declina il genere fa un errore grammaticale. Sono avvisati dunque gli sgrammaticati, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, come dice giustamente Laura Boldrini, almeno non diano degli sgrammaticati a quelli che parlano correttamente, che declinano secondo del genere, le professioni e tutto il resto. Roberta Giordano con voi naturalmente per questa ultima puntata della settimana di Effetto Notte, come sempre, quindi essendo l'ultima, quella del venerdì, farò un bilancio insieme al vice direttore del Sole 24 Ore della politica della settimana, il meglio, il peggio, a seconda dei punti di vista, con il travagliatissimo iter sempre delle unioni civili, con tutti i movimenti e le manovre retroscena, diciamo, dietro le quinte per arrivare a mediazione, per capire quali sono le maggioranze possibili per far passare il disegno di legge Cirinnà oppure per sabotarlo, a seconda dei punti di vista. E poi naturalmente, oltre a questo, parleremo anche dei mal di pancia dentro il PD. Adesso è scoppiata una nuova polemica sui tesseramenti in Sicilia. Quello che vi chiedo a questo proposito, ecco l'argomento che vi lancio stasera per le vostre riflessioni, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, le potete scrivere lì tranquillamente giorno e notte, oppure attraverso gli SMS al 349-238-6666, è questo il tema. Nel PD scoppia appunto questo caso dei tesseramenti anomali in Sicilia, dopo che l'ex presidente Cuffaro, che è stato in galera per sostegno alla mafia, l'ex del nuovo centrodestra Cuffaro, ha detto: i miei si stanno spostando tutti verso il PD, e quindi qualcuno ha notato, il segretario siciliano del PD ha notato dei tesseramenti un po' anomali e ha detto: voglio qui i garanti. E mentre Bersani minaccia di andarsene, dice: il PD sta diventando qualcosa che non si capisce più, stiamo imbarcando chiunque, e invece Faraone, sempre del PD, renziano, dice: insomma, non chiudiamoci, non è che un club per pochi iscritti, pochi elitari, in realtà il PD si deve aprire. Quindi è un partito democratico, secondo voi, in crisi di identità, oppure è che cerca invece un consenso allargato, anche un po' oltre i propri confini? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, per dire la vostra su un PD appunto o in crisi di identità o in cerca spasmodica di allargamento di consenso. Gli argomenti poi saranno naturalmente altri per la politica. Invece su altri temi andremo, naturalmente torneremo sul caso di Giulio Regeni. In Egitto sono state al Cairo arrestate due persone, due sospetti, ma insomma, saranno poi questi, saranno magari due poveri disgraziati presi come capri espiatori. Cercheremo di capirlo, così come cercheremo di capire se dobbiamo essere preoccupati per il virus Zika. In Italia pare che siano già 9 le persone infette, poi c'è stato anche un appello lanciato oggi dall'ONU ai paesi maggiormente colpiti dal virus perché cambino le leggi e permettano la contraccezione e l'aborto là dove sono vietati. Partiamo allora con la sintesi della giornata. Il giovane ricercatore italiano ucciso al Cairo, la salma di Giulio Regeni, sarà domani a Roma, prevista l'autopsia. Nella capitale egiziana arrestati due sospetti. Zika, l'ONU lancia un appello ai paesi colpiti: autorizzate aborto e contraccezione. I casi in Italia salgono a 9. Colonia violentata nella notte di carnevale, una 22enne fermato un profugo afghano, l'avrebbe stuprata dopo averla picchiata sino allo svenimento. PD: nel partito scoppia il caso Cuffaro e Bersani minaccia di andarsene. Intanto al via le primarie a Milano, assolto in appello il governatore della Campania De Luca, cade lo spettro sospensione. Unioni civili, pressing del Consiglio d'Europa per le adozioni, il nuovo centrodestra contro l'asse PD Movimento 5 Stelle, minaccia: potremmo uscire dalla maggioranza. Incontro storico tra il Papa e il Patriarca di Mosca, un appuntamento preparato da tempo, sarà il 12 febbraio a Cuba, folla intanto la processione per San Pio e San Leopoldo a Roma, traffico in tilt. Partiamo quindi sempre dall'omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano trovato 2 giorni fa in un fosso alla periferia del Cairo con evidenti segni di tortura. Nel tardo pomeriggio di oggi, vi dicevo, sono stati arrestati 2 sospetti. L'alleanza con l'Egitto, i nostri consolidati buoni rapporti, spero che siano il fluidificante verso la verità. Noi abbiamo un solo obiettivo, la verità. La stretta collaborazione nelle indagini tra Roma e il Cairo, auspicata dal ministro Alfano in mattinata su Rai 3, si è già tradotta in due arresti. La polizia egiziana ha infatti fatto sapere in serata di aver fermato due persone sospettate di aver avuto un ruolo nell'uccisione dello studente italiano Giulio Regeni, aggiungendo solo che si tratta di criminali comuni che nulla hanno a che fare con politica o terrorismo. 7 nostri ufficiali, tra carabinieri, polizia, Interpol, dovrebbero intanto cominciare nelle prossime ore a lavorare in coordinamento con gli investigatori del Cairo. Il tutto mentre l'ambasciatore egiziano in Italia ha ribadito la totale disponibilità delle autorità a far emergere la verità per evitare, ha detto, che certi nemici strumentalizzino la morte del giovane per minare gli eccellenti rapporti tra i nostri due paesi. Rapporti su cui il caso Regeni, scrive oggi il New York Times, ha fatto in realtà cadere il gelo. Ci sarebbero infatti complicazioni, per ora taciute, tra Roma e il Cairo, secondo il quotidiano americano, a causa dello scetticismo italiano riguardo la reale volontà delle autorità egiziane di far emergere la verità. Intanto la salma di Giulio Regeni domani verrà rimpatriata, arriverà a Fiumicino, da dove verrà trasferita all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Vi dicevo, saranno stati presi quindi al Cairo due effettivi colpevoli, o piuttosto si tratterà di due capri espiatori o di due che devono svolgere quel ruolo, perché invece la verità potrebbe essere un'altra. Cercheremo di capirlo con chi conosce bene l'Egitto più tardi. Parliamo del virus Zika. I paesi coinvolti dal virus devono autorizzare la contraccezione e l'aborto. Questo è l'ultimo appello sull'epidemia, lanciato questa volta non dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma direttamente dall'ONU. L'Alto Commissariato per i Diritti Umani dell'ONU ha preso una posizione decisa, rivolgendosi ai governi e rivolgendo questo appello, che diventa una sfida anche per la Chiesa, dal momento che gran parte delle nazioni coinvolte dall'epidemia sono di religione cattolica e la più seguita, e diciamo la religione cattolica è la più seguita, e quindi l'aborto è vietato. E diventano, vi dicevo, 9 i casi invece di Zika in Italia. Si tratta di persone che hanno soggiornato in Brasile nelle settimane scorse. Quali sono i sintomi? Ci dobbiamo preoccupare? Ce lo spiegherà più tardi, anzi tra poco, insomma, un'esperta. Immigrazione: c'è un grande movimento di profughi al confine tra la Siria e la Turchia. Una colonna di uomini, donne e bambini siriani fuggiti dai raid russi e dall'avanzata del regime nella provincia di Aleppo attendono di entrare in Turchia al valico di confine di Onkupinar, che per il momento rimane chiuso. Sono almeno 20.000 per ora. Altre decine di migliaia sono ancora in cammino verso la Turchia. A Ratian, a nord di Aleppo, intanto di almeno 120 morti il bilancio provvisorio delle vittime dei combattimenti. Il premier turco Davutoglu ha assicurato oggi che gli sfollati non verranno lasciati senza cibo o riparo, ma non ha fornito informazioni su quando Ankara, che ospita già oltre 2,5 milioni di rifugiati siriani, intende riaprire il confine. Nel suo intervento di ieri a Londra, alla conferenza dei donatori, dove ci si è impegnati a versare 10 miliardi di dollari per far fronte alla crisi siriana, Davutoglu ha parlato di 70.000 profughi diretti in Turchia. Per il segretario generale della NATO Stoltenberg, gli intensi attacchi aerei russi stanno minando gli sforzi per trovare una soluzione politica al conflitto. Più di 250.000 siriani sono morti dal 2011 e oltre la metà dei 21 milioni di siriani ha dovuto abbandonare le proprie case come profughi. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora ci spostiamo in Germania, dove c'è stato un nuovo caso di violenza sessuale a Colonia, vittima una ragazza di 22 anni, fermato un profugo afghano di 17 anni. Le paure della vigilia sembrano avverarsi. Quello che la Germania più temeva all'apertura del carnevale sembra ora prendere corpo. Una ragazza ha denunciato di essere stata picchiata e violentata ancora a Colonia, ancora una volta da un richiedente asilo già fermato, e sarebbe successo proprio durante la Weibfestnacht, la notte delle donne, quella in cui si tagliano le cravatte. Non è bastato blindare la città con 2.500 agenti, non è bastato avere un punto di polizia solo per donne, dove comunque nella prima delle 5 giornate di festa sono arrivate 22 denunce rispetto alle 9 del 2015. Ugualmente la peggiore delle violenze è stata consumata. Alle 3 di notte la ragazza ha raccontato di essere stata avvicinata da un afghano che le ha mostrato foto pornografiche sul cellulare per poi avventarsi su di lei. È il portavoce della polizia, Raf Remmert, a confermare al quotidiano Bild dettagli della denuncia presentata dalla ventenne, che ha portato poi al fermo di un profugo afghano di 17 anni. In una città e in un paese ancora scosso dalle molestie di gruppo di Capodanno e ora spaventato pure dal rischio terrorismo dopo l'arresto di una cellula di presunti jihadisti, la notizia di questo stupro potrebbe avere conseguenze difficili da prevedere. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla politica italiana. Sulle unioni civili c'è il pressing anche dal parte del Consiglio d'Europa, che dice bisogna superare questa discriminazione, bisogna che ci sia una legge per tutelare i diritti delle persone omosessuali e anche per le adozioni. Intanto il nuovo centrodestra è contro l'asse PD Movimento 5 Stelle. Vi ricordate che all'inizio della settimana Alfano aveva detto sarebbe un traumatico che PD e Movimento 5 Stelle votassero insieme compattamente sul disegno di legge Cirinnà, e minaccia ancora il nuovo centrodestra, potremmo uscire dalla maggioranza. Per quanto riguarda il PD, nel partito scoppia il caso Cuffaro e Bersani minaccia di andarsene. I garanti del PD allora sono stati convocati a Palermo per procedere alla valutazione delle tessere rilasciate ai nuovi iscritti. Anche di questo parleremo nel bilancio della politica della settimana. E poi c'è la notizia che riguarda il governatore della Campania Vincenzo De Luca, che è stato assolto perché il fatto non sussiste nel processo d'appello per la nomina di un manager nell'ambito di un progetto per la costruzione di un termovalorizzatore a Salerno. In primo grado era stato condannato a 1 anno, pena poi sospesa, condanna che va determinato nei confronti di De Luca la sospensione dall'incarico di presidente della giunta regionale per effetto della legge Severino, provvedimento che adesso decade. E De Luca ha detto: sono stati anni di aggressione, un calvario per nulla, ho retto per l'assoluta serenità di coscienza. E ci sono le primarie a Milano questo fine settimana, sentiamo. Nella partita delle primarie si gioca anche il futuro di Milano, non solo quello del Partito Democratico a livello nazionale. In campo si scontrano non solo candidati diversi per la loro storia, per le loro esperienze, anche due concezioni diverse e contrapposte di governo della città. Giuseppe Sala è essenzialmente un manager prestato alla politica e il suo ruolo lo svolge fin dai tempi della giunta guidata da Letizia Moratti. In sostanza, la sua concezione di città modernista e accattivante, che guarda al centro più che alle periferie della metropoli, mette d'accordo la parte renziana del PD e il centrodestra. E durante la campagna elettorale Sala si è smarcato dal suo passato e si è presentato come il sindaco del ceto medio milanese, in sostanza il sindaco di tutti. Sulla sua corsa a Palazzo Marino potrebbero pesare le polemiche sul bilancio di Expo. Pur da culture diverse, Francesca Balzani e Pierfrancesco Maiorino propongono una città più inclusiva, che si muove nel segno della giunta di Giuliano Pisapia e che accentua il carattere sociale del governo della città. Ambiente, cultura, periferie, case popolari, welfare. Anche se la cosiddetta rivoluzione arancione della stagione dei sindaci 2011 è ormai finita, con i candidati Balzani e Maiorino si respira evidentemente un clima di continuità con le scelte dei 5 anni precedenti. E sulle primarie di Milano pesa ancora l'incognita del centrodestra, che sta a guardare in attesa di vedere le prossime mosse. Parliamo adesso dell'incontro storico che ci sarà tra il Papa e il Patriarca di Mosca. Avverrà a Cuba, all'aeroporto di Cuba, José Martí de La Habana, il 12 febbraio, durante il viaggio del Pontefice in Messico. E poi, sempre per temi religiosi, sapete, cioè, con la processione per San Pio e per San Leopoldo a Roma, circa 20.000 persone tra fedeli, curiosi, turisti hanno assistito a questo trasferimento in San Pietro dei resti di Padre Pio e naturalmente traffico in tilt della città, della capitale. Direi che ci possiamo fermare quindi per il momento, aggiornando chi speriamo che non sia nel traffico in tilt, questo non dovrebbe essere su strade e autostrade. Voglio leggere però, prima di lasciarci, alcuni vostri messaggi al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte. La domanda che vi ho fatto a proposito di questa nuova polemica che è scoppiata nel PD per i tesseramenti in Sicilia è questa: è un PD in crisi di identità, Bersani minaccia di andarsene, dice qui stiamo caricando un po' tutti sopra la barca, oppure è un PD che cerca di allargarsi, di diventare veramente il partito della nazione? 349-238-6666 per i vostri messaggi via SMS, oppure se li volete scrivere comodamente sulla pagina Facebook di Effetto Notte, è lì per voi. C'è Clotilde che dice invece sul caso di Giulio Regeni al Cairo: visto Roberto, hanno trovato gli assassini di Giulio, due criminali comuni, con quanta velocità così lo spregiudicato può continuare a stringere la mano a Raiz, si riferisce a Renzi, a dargli ancora la tua guerra e la mia guerra, tutti contenti, fanno poi un po' di ammuina e gli affari sporchi di sangue sono salvi. Abbiamo parlato ieri del fatto che continua naturalmente i rapporti commerciali tra Egitto e Italia, abbiamo molti interessi reciproci ed è utopistico insomma che si possa evitare di far questo. E poi dice invece Silvia, a proposito del PD, anzi Walter da Milano prima, ancora sul caso Regeni, dice: un solo obiettivo, la verità. Come suonano banali queste parole dette da Alfano rispetto all'arresto di due ipotetici killer, pensare al capro espiatorio è sintomatico, è la prima cosa che ho pensato anch'io. Perché, si chiede Walter, poi cercheremo di capire perché. E invece sul PD Silvia scrive che Carrozzone scomposto è diventato ormai il PD da quando Renzi ne ha assunto il comando, non si capisce più quale sia la sua vera identità. Bersani ha ragione a non ritrovarsi più in questo crogiuolo delle molteplici anime, temo che questo partito perderà molti voti. Il io sicuramente, dice Silvia, tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto nel momento giusto, ditelo anche amici, parenti, conoscenti, di seguire sempre Effetto Notte dalle 21 alle 22 per avere un aggiornamento totale sulla giornata e approfondimenti sugli argomenti. Tra pochissimo infatti parleremo di Zika, ci sono 9 casi ormai in Italia e c'è questo appello accorato dell'ONU di cui parleremo tra pochissimo. Intanto voi continuate con i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666, a proposito per esempio della possibile crisi di identità secondo voi del PD. Simone dice: hanno voluto un partito condiviso con gli ex DC, così è nato il PD, molti dei colleghi di Cuffaro sono ex DC, allora il problema è che gli ex comunisti erano convinti di comandare sempre loro. Voi procedete, io intanto vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento anziché puntualmente alle 21, quali sono le notizie più importanti della giornata. 2 arresti al Cairo per l'omicidio di Giulio Regeni. In Italia si farà una nuova autopsia e intanto Alfano dice: l'Italia chiede una giustizia severa. Nel PD scoppia il caso Cuffaro, Bersani minaccia di andarsene, intanto il governatore della Campania De Luca è stato assolto, può governare quindi, e domani partono le primarie del PD a Milano. Storico incontro a Cuba tra il Papa e il Patriarca di Mosca, Francesco supera la questione delle Uniate, cade un altro muro, quindi si incontreranno il 12 febbraio all'aeroporto dell'Havana. E poi unioni civili, c'è il pressing anche da parte del Consiglio d'Europa per le unioni civili, per le adozioni, il nuovo centrodestra è contro l'asse PD Movimento 5 Stelle e dicono: dal nuovo centrodestra potremo uscire dalla maggioranza. Monito dell'ONU su Zika, consentire aborto e contraccezione, i vescovi insorgono e dicono: non è provata la relazione tra la microcefalia e Zika, intanto in Italia ci sono 9 casi. I paesi coinvolti dal virus Zika devono autorizzare la contraccezione e l'aborto. Questo appello non è l'ultimo sul virus Zika e non viene dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma direttamente dall'ONU, perché l'Alto Commissariato per i Diritti Umani ha preso una posizione decisa rivolgendosi ai governi con questo appello che diventa una sfida, vi dicevo, anche per la Chiesa. Avete sentito che sono insorti vescovi, ma dal momento che in gran parte delle nazioni coinvolte da questa epidemia la religione cattolica è dominante, e intanto in Italia ci sono 9 casi di Zika. Allora io saluto Maria Rita Gismondo, che è responsabile del laboratorio di microbiologia clinica dell'ospedale Luigi Sacco di Milano. Dottoressa Gismondo, buonasera. Buonasera a voi. Allora, abbiamo bisogno in modo molto pragmatico di capire da lei se intanto quali sono i sintomi di Zika e se bisogna preoccuparsi. I sintomi di Zika sono quelli di sempre, cioè un rash cutaneo, un po' di dolenzia simile influenzale, solo in rarissimi casi c'è un coinvolgimento meningeo. In realtà il grande allarme c'è stato dopo una insorgenza di casi di Zika correlabili, anche se ancora non in maniera ufficiale e definitiva, alla nascita di bambini con microcefalo. Cioè con la testa più piccola del normale, con la no? testa più piccola del normale, senza uno sviluppo scheletrico della testa, ciò poi impedisce ovviamente anche lo sviluppo psicosomatico del bambino. La correlazione, anche se ripeto ufficialmente gli organi internazionali non si sono definitivamente pronunciati, sembra evidente e da qui l'allarme. Dobbiamo preoccuparci, direi dobbiamo stare molto attenti, ma soprattutto attente le donne in età fertile che potrebbero essere gravide o le donne già in gravidanza. Per loro questo è veramente al momento un rischio. Questo comporta delle precauzioni, nel senso che bisogna evitare di andare in certi paesi, per esempio America Latina, Caraibi, sento dire che questi sono i paesi più colpiti, oppure non c'è una forma di vaccinazione, immagino, al momento, perché finora non si era parlato di Zika. No, assolutamente no. Le precauzioni, dunque, lo scorso lunedì c'è stata una call internazionale dell'OMS con un documento che è arrivato a tutti i centri di riferimento, e l'ospedale Sacco è uno di questi centri, in cui si ribadiva il concetto che non è necessario limitare gli spostamenti e i viaggi. È assolutamente necessario che le donne che presumono di essere in stato di gravidanza abbiano una certa accortezza, si rechino lì solo per necessità e comunque, nel caso dovessero accorgersi di essere in gravidanza, facciano subito dei controlli. Esistono dei test che si fanno con prelievo di sangue, test che sono idonei ad intercettare la presenza del virus o il fatto storico di aver già contratto questa infezione. Senta, dottoressa Gismondo, per i casi che ci sono in Italia, sono casi che sono comparabili a un'influenza magari un po' più fastidiosa oppure sono seri? Dal punto di vista clinico assolutamente diciamo patologicamente banali, però io ci terrei a non chiamarli casi italiani, perché questo incute terrore e anche un'interpretazione falsa di quella che è la diffusione di questo virus. Sono casi del Sud America, dell'America Latina, di persone che poi si sono spostate in Italia, erano casualmente di nazionalità italiana, sarebbero potute essere di qualsiasi altra nazionalità, ma in effetti il virus è e rimane ancora localizzato in quella zona, quindi non sono casi italiani nel senso di contagi in Italia, non ci sono contagi in Europa, perché non esiste il vettore, cioè la zanzara che conduce, che trasmette questo virus. Quindi da questo punto di vista siamo assolutamente tranquilli. È vero che l'aumento della temperatura estiva, che il cambiamento climatico potrebbero far sì che questa zanzara possa arrivare anche in Europa. Oggi l'unica cosa che possiamo fare è usare, se ci si reca nei paesi in cui c'è questa zanzara o qualora questa zanzara giungesse nel nostro continente, usare insetto repellenti, quindi gli spray che allontanano le zanzare. Direi precauzione necessaria in quei paesi quando ci rechiamo, a prescindere da Zika, per prevenire altre infezioni, malaria, dengue, che sono tutte trasmesse da zanzare, che si trovano in quelle zone, non in Italia ancora. Quindi per il momento possiamo stare tranquilli. Grazie dottoressa Maria Rita Gismondo. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro. In assoluta. Buona sera. La politica invece non è mai del tutto tranquilla, anzi si agita, agisce, dovrebbe agire, vediamo anche in che senso. Il bilancio, siamo al bilancio della politica di questi giorni. Temi centrali, li dico a voi, li dico a Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore, ben ritrovato Fabrizio. Buonasera, ciao Roberta. Allora, temi importanti, i più importanti, diciamo, è l'iter parlamentare frenetico, tormentatissimo delle unioni civili che prosegue tra emendamenti, canguri sventati, ricorsi, minacce, traumi, maggioranze trasversali, tentativi in extremis di mediazione, braccio di ferro sulla stessa adoption, insomma, vediamo come prosegue martedì tra l'altro la discussione. Poi c'è la diatriba che dura ormai da settimane tra il governo italiano e Bruxelles sui conti pubblici, sulla flessibilità, è ritornato alla carica Padoan ieri, l'altro ieri. Poi le primarie del centrosinistra a Milano che partono domani e poi la nuova polemica interna al PD sul tesseramento in Sicilia, dove c'è il sospetto di adesioni di adepti di Cuffaro, ex presidente della regione Sicilia, che è stato 7 anni in carcere per affiancamento e supporto alla mafia, che avrebbe detto ai miei si stanno spostando tutti verso il PD. Da dove vuoi iniziare? Ma insomma, un passaggio sulle unioni civili oramai tradizionalmente non per forza che non possiamo da quanti, da quanti mesi cominciavano le nostre o da quanti anni o da quanti anni insomma quanti se anni. Si decidessero non ne parliamo più almeno per ma un po' si spera, ho l'impressione che non si sono ancora decisi. Non so tu che ne pensi, ma penso mi sembra insomma che ne vedremo ancora tante, a cominciare dal dibattito parlamentare questa settimana, dove siamo divertiti a vedere come i nostri senatori pronunciavano la parola stepchild adoption, ne abbiamo veramente sentite di tutti i colori, forse se si ricorreva al termine in italiano era forse anche più comodo, insomma l'adozione del partner, del figlio del partner, non del partner. Poi se si vuole anche del partner, insomma, non so se sia possibile. Si vuole anche del partner. Ma insomma, politicamente mi sembra ancora molto aperta e mi sembra che ancora non si vede il traguardo, non si vede il traguardo, nel senso che il PD nei voti segreti può succedere ancora di tutto, sia all'interno del PD sia all'interno del Movimento 5 Stelle, la cui compattezza diventa invece essenziale all'approvazione per il passaggio. Allora sentiamo, prima ti faccio sentire l'accorato appello, ho fatto sentire anche questi giorni, della relatrice, la prima relatrice del disegno di legge, che è la Monica Cirinnà. Sentiamo l'appello al Senato e poi Alfano su possibili traumi. Sentiamo. Colleghi, vi chiedo, da che parte vorremmo farci trovare dai nostri figli e dai nostri nipoti quando fra 30 anni torneranno a leggere i resoconti di questa seduta? Dalla parte di chi ha creduto possibile far muovere all'Italia il primo e tanto atteso passo verso l'uguaglianza? O dalla parte di chi ha visto nella Costituzione il patrimonio di pochi privilegiati e nell'estensione dei diritti un pericolo? Ritengo che sia un fatto negativo e traumatico. Io non credo che minacciare a 8 giorni dal voto la crisi sia, conoscendo anche le dinamiche parlamentari e Renzi, una mossa intelligente e astuta per chi come me vuole ridurre il danno. Crisi. Noi non minacciamo la crisi, diciamo semplicemente che votare insieme a 5 Stelle è un fatto traumatico e grave, che il Partito Democratico, se lo risparmia questo fatto, fa meglio. Non solo fa meglio per me o fa meglio per Renzi, fa meglio per l'Italia. Correlato al tema naturale dei figli naturali nati dal concepimento è il tema dei figli adottivi, cioè dire quello che in inglese si chiama step child association, adoption, cioè dire questa lingua che noi utilizziamo ricorrentemente in inglese, ma non è altro che la traduzione adozione del figliastro. Insomma, allora... Ce l'ho detto, che l'abbiamo sentita di tutti i colori. La Cipodi si è intorcinata la lingua praticamente del gruppo misto, hai sentito paura di traumi di Alfano e l'appello della Cirinnà, una insomma, sintesi. Diciamo, al di là dei sorrisi, insomma, politicamente sicuramente è un passaggio delicato. Certo. Non credo che Alfano abbia la forza di minacciare niente, quindi credo che il PD non potrà che andare avanti sulle indicazioni di Renzi a favore del voto, però appunto nel voto segreto sappiamo che il PD non sarà compatto e quindi bisognerà contare i voti, insomma sarà sicuramente una votazione che si decide all'ultimo. Poi c'era stata l'irruzione anche della dichiarazione del presidente dei pediatri italiani, Corsello, che avevo avuto poi qui effetto note, che aveva detto può creare danni ai bambini, poi qui effetto note aveva un pochino ritrattato, aveva detto no, può essere uno sviluppo armonico anche in una coppia dello stesso sesso, però non sempre, eccetera, eccetera. Poi invece io ti farei sentire, a questo punto vogliamo andare su Padoan e la richiesta, diciamo, piuttosto imperiosa della flessibilità a cui l'Italia ha diritto, sentiamolo. L'Italia chiede entro i margini previsti dalla Commissione di utilizzare questi margini, quindi non c'è nulla che non sia compatibile con quelle regole, non chiede nuova flessibilità come ho visto dire da autorevoli esponenti italiani e europei, non stiamo chiedendo nulla di nuovo, tutto ciò è incluso nella legge di stabilità che è stata approvata dal Parlamento. Ecco, questo, cioè, con pacatezza l'ha chiesto, ma insomma, dice, è un diritto dell'Italia. Ritorniamo ancora su questa questione della flessibilità dei conti pubblici, delle nostre spese già fatte, al di là del contributo dato per la Turchia ai migranti in Turchia, fatte per quelli che venivano dal Mediterraneo nel nostro paese. Allora, io credo sia una questione effettivamente molto molto importante, quindi è giusto dagli spazio e credo che insomma l'Italia, il governo italiano abbia tutte le sue ragioni nel rivendicare questa flessibilità, insomma in particolare in relazione agli immigrati. Non si capisce perché le spese che noi sosteniamo sul fronte medio orientale dell'immigrazione per finanziare la Turchia, per finanziare gli interventi per limitare il flusso dal Medio Oriente possano essere esclusi dal calcolo del deficit a fine del patto di stabilità, mentre invece sulle spese che si sostengono sul fronte meridionale, quello che più direttamente interessa l'Italia, ancora c'è un punto interrogativo e la Commissione rinvia il suo giudizio. Io credo che su questo l'Italia fa bene in qualche modo a farsi sentire e a rivendicare le sue ragioni. Poi sul modo in cui ti devi confrontare con Bruxelles, certo, insomma, qui alcuni dubbi ci possono essere. Io credo che il tono pacato di Padoan sia quello forse più giusto. Renzi spesso preferisce, come dire, una contrapposizione un po' più ruvida, ci sta anche la contrapposizione ruvida, devi essere attento però a crearti gli alleati tali da poter poi portare avanti la tua battaglia. Se invece poi ti ritrovi, non dico isolato, ma insomma senza avere la forza di un'alleanza compatta, certo il risultato si può allontanare. Allora forse come strategia, come metodo attraverso cui puoi raggiungere l'obiettivo, forse qualcosa si può rivedere. Invece, per quanto riguarda adesso questa nuova polemica che c'è dentro il PD, sentiamo che cosa ha detto Bersani. Io ho voluto in modo un po' brusco lanciare un segnale, una sveglia, perché noi, PD, non siamo un partito di potere buono per tutti gli usi, noi siamo un partito di governo, un partito di centrosinistra, un partito di cambiamento col nostro profilo, non siamo un porto dove può sbarcare chiunque. Quindi non siamo un porto dove può sbarcare chiunque, questo per questi tesseramenti giudicati almeno dal segretario siciliano del PD un po' anomali, con Cuffaro che ha detto, ex presidente diciamo prima della regione Sicilia, che ha detto i miei si stanno spostando tutti nel PD, e quindi un po' di allarme, sono stati chiamati garanti, ci sarà lunedì questa riunione, e Bersani che dice così, mentre per esempio Faraone diceva no, non deve essere un club per pochi eletti il PD, bisogna che ci siano nuove energie positive che entrino, insomma ci sono molti messaggi degli ascoltatori poi che ti vorrei leggere, ma forse non facciamo in tempo. Come commenti questa? Ma è evidente, voglio dire, che bisogna stare attenti, voglio dire, a chi si avvicina, nel senso che se c'è come dire dell'infiltrazione da parte di voto comunque prossimo alla mafia, bisogna fare molta attenzione. Quando un partito vince le elezioni, quando un partito è vincente, questo problema si pone sempre, si pone la Democrazia Cristiana, se posso per un periodo addirittura con il PC, lo ricordiamo benissimo, quindi e si pone anche con il Movimento 5 Stelle, tutto il caso di Quarto, per cui come dire, il partito vincente deve stare attento sicuramente a chi imbarca. Credo però che nelle dichiarazioni di Bersani ci sia anche qualcos'altro, insomma ci sia una sua avversione più generale al partito di Renzi, a queste ipotesi del partito della nazione, che poi nemmeno Renzi usa più il termine partito della nazione. Insomma, probabilmente c'è banalmente l'idea di un partito più di sinistra. Io poi credo che alla fine il partito di Renzi è un partito di sinistra più liberale, più centrista forse. Quello che ha in mente Bersani è un partito più di sinistra. Credo che alla fine su tutte le questioni ci si divide anche intorno a questo asse molto tradizionale, se vogliamo antico, ma che in qualche modo torna su tutte le questioni, su tutte le grandi riforme che questo governo sta facendo. Infatti stavo vedendo i vari messaggi. Senti, abbiamo ancora credo 32 secondi, vuoi fare un commento sulle primarie del centrosinistra domani a Milano? Ci sono i quattro candidati. Beh, insomma, credo che le primarie di Milano rapidamente sono un bel esempio di democrazia. Funzionassero sempre così le primarie, sarebbe un successo per il PD e sarebbe un successo se si estendessero anche gli altri partiti nella democrazia italiana. Purtroppo quello di Milano è un caso isolato, perché altrove invece stiamo vedendo le primarie molto confuse, a cominciare da Roma, ma anche il caso di Napoli, dove addirittura c'era stato nel tentativo dell'ultima ora di candidare Umberto Ranieri in area più renziana, ma che invece per una questione di firme poi alla fine è stato escluso. È Umberto Ranieri è un candidato su Napoli e, come dire, prestigioso, per cui insomma ha fatto abbastanza scalpore la sua esclusione. Fabrizio, perché vedremo, vincerà il migliore, insomma, si spera, per queste primarie. Non sempre vince il migliore. infatti volevo essere ottimista. Va bene. Grazie Fabrizio Forché, buon fine settimana. Ciao Fabrizio, dobbiamo correre subito in pausa. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Siamo sempre insieme, riprendiamo il filo anche con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, è al 349-238-6666. Su un PD di nuovo nella bufera, nelle polemiche, i tesseramenti in Sicilia si chiamano i garanti, per capire insomma chi si sta iscrivendo in Sicilia al PD, crisi d'identità oppure diciamo l'ambizione di un allargamento a partito della nazione. Alessandro scrive: il PD non ha mai avuto un'identità precisa, poi è arrivato Renzi che gli ha dato la sua, ora il PD è Renzi e Renzi è in cerca di consenso allargato. Senato. E poi invece Tonino scrive: una provocazione, c'è ancora il PD? Meglio, c'è mai stato un PD? Andrea da Bologna: sono gli elettori di sinistra che non si identificano più con il partito, sono fedeli al PD, solo quelli dello zoccolo duro del PC. Continuate con le vostre riflessioni, con i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte e gli sms al 349-238-6666, mentre io sintetizzo le notizie più importanti della giornata. Il giovane ricercatore italiano ucciso al Cairo, la salma di Giulio Regeni sarà domani a Roma, prevista l'autopsia. Nella capitale egiziana arrestati due sospetti. Zika, l'ONU lancia un appello ai paesi colpiti, autorizzate aborto e contraccezione, e i casi in Italia salgono a 9. Colonia violentata nella notte di carnevale, una 22enne, fermato un profugo afghano, l'avrebbe stuprata dopo averla picchiata sino allo svenimento. PD nel partito, scoppia il caso Cuffaro e Bersani minaccia di andarsene, intanto al via le primarie a Milano, assolto in appello il governatore della Campania De Luca, cade lo spettro sospensione. Unioni civili, pressing del Consiglio d'Europa per le adozioni, il nuovo centrodestra contro l'asse PD Movimento 5 Stelle, minaccia, potremmo uscire dalla maggioranza. Quindi torniamo sulla vicenda terribile di Giulio Regeni, ricercatore friuliano di 28 anni, dottorando all'Università di Cambridge, che stava scrivendo una tesi al Cairo. È stato trovato morto mercoledì in un fosso alla periferia della capitale egiziana. Era scomparso il 25 gennaio, che non era un giorno qualunque, ma un giorno di particolare tensione perché ricorreva il quinto anniversario della caduta dell'ex presidente Mubarak. Sul suo cadavere sono stati trovati chiari segni evidenti di tortura, ferite da coltello, bruciature di sigarette, orecchie mozzate, insomma una morte lenta, anche se la polizia ha cercato di sviare le indagini in tutti i modi dicendo che si trattava di un incidente stradale. Purtroppo la tortura in Egitto è un fatto comune, ordinario. La novità di oggi è che al Cairo sono stati fermati due sospetti, anche se la convinzione generale, anche da parte degli oppositori egiziani che sui social media arabi accusano la polizia del loro paese di aver torturato e ucciso Giulio, e così anche nelle denunce di Human Watch Rights e Amnesty International, organizzazioni per i diritti civili, che parlano di centinaia di desaparecidos, di persone scomparse, altre trovate morte dopo una detenzione extragiudiziale, torturati, torture e abusi, soprattutto dopo la violenta repressione seguita al governo di Abdel Fattah al-Sisi. Ieri, se avete sentito, c'era con qui a Effetto Notte Giuseppe Acconcia, ricercatore dell'Università di Londra, nonché collaboratore del Manifesto, che ci ha raccontato che Giulio scriveva per il Manifesto con uno pseudonimo, si occupava del movimento operaio egiziano e temeva per la sua incolumità. Sentiamo un passaggio di Acconcia. Giulio ha proposto degli articoli al Manifesto, che è il giornale per cui io lavoro, e erano degli articoli molto interessanti perché riguardavano i sindacati dipendenti, riguardavano il movimento operaio egiziano, e quindi ci è sembrato subito un punto di vista intelligente, essenziale per capire l'Egitto del 2016, che è sì un paese dove la repressione dopo il colpo di Stato militare è fortissima, però ancora ci sono delle code dei movimenti del 2011, e una delle code più interessanti viene proprio dal sindacalismo indipendente, che è quello che stava studiando Giulio. E dice poi in un altro passaggio a Concia che usava Giulio Regeni uno pseudonimo perché aveva paura per se stesso. Spesso ci diceva di utilizzare uno pseudonimo perché non voleva apparire. Questa cosa evidentemente significa che temeva qualcosa, però tutti in Egitto in questa fase hanno dei timori. Soltanto nei giorni precedenti il 25 gennaio sono 5.000 le case che sono state perquisite dalle forze dell'ordine, ci sono stati 75 arresti, moltissime persone, studiosi degli Stati Uniti, europei, di altri paesi, sono stati fermati in aeroporto. Alberto Negri, inviato speciale del Sole 24 Ore, oggi dicevamo fermati due sospetti, mi sa che si stanno cercando dei capri espiatori? Ma questo non possiamo saperlo ancora. Certo. Ma insomma, mi sembra di aver sentito cose già sentite e strasentite mille volte, ecco, perché adesso purtroppo c'è saltato fuori il morto. Ma non ci deve stupire tutto questo in un paese come l'Egitto e come in genere il Medio Oriente, dove c'è sempre un lato oscuro del potere, e il lato oscuro del potere è costituito dalla polizia, dai servizi, da quegli apparati di sicurezza che tengono in piedi i rais e i regimi da sempre. Se noi guardassimo la storia dell'Egitto negli ultimi 60 anni, vedremo che è costellata da Nasser, passando per Sadat, per Mubarak, arrivando al Sisi, da generali che poi hanno smesso la divisa, sono diventati dei presidenti del paese, hanno utilizzato proprio questo intreccio che c'è sempre stato tra servizi, polizia, forze militari, apparati di sicurezza, su quel potere che è poi quello che si perpetua al di là dei regimi. A volte le rivoluzioni sono delle sorti di illusioni ottiche, perché in qualche modo appunto questo potere si perpetua e i sistemi restano quelli. Ma immaginate soltanto che in tutti i paesi arabi, Egitto compreso, ci esiste sempre il Ministero dell'Informazione. Se l'informazione fosse gradita non ci sarebbe un Ministero dell'Informazione, non vi pare? Certo, tra l'altro è arrivata oggi una squadra di investigatori italiani lì in Egitto per cercare di rilevare qualsiasi elemento possa essere utile per l'indagine, anche se mi sembra che ci sia stato un chiaro depistaggio, no? Dalle prime dichiarazioni della polizia, dal fatto che il cadavere del povero ragazzo sia stato buttato in un fosso in queste condizioni. Non so quali sono, se tu hai voglia di dire qual è il tuo punto di vista, che idea ti sei fatto di questa vicenda. Beh, pensi che... Il mio punto di vista, direi che è quello della logica. Stiamo scherzando? Cioè, questo ragazzo è stato trovato 24 ore fa. Dopo una settimana il cadavere è stato preso e portato via e nessuno ha fatto dei rilievi sul posto, cioè su com'era il cadavere, sul posto, come è stato trovato, in che condizioni, e già questo è un, come dire, qualche cosa che mette un ostacolo all'indagine e all'accertamento dei fatti e della verità, no? Poi che vengono arrestati due persone di cui non sappiamo nulla per ora, nella loro identità, né da dove vengano, e vengano imputati di questo omicidio per liberarsi in realtà di un problema, perché questo significa, no? Fare due arresti e liberarsi un po' dei problemi, di questo problema qui, e fare in modo che la gente, che la memoria è corta, si dimentichi di questo fatto di sangue, perché la realtà vera è che se tu vuoi fare delle indagini, andare sul posto e farle, quelle che faranno le nostre autorità non sono indagini sul posto, si accontenteranno molto probabilmente di quello e dei rapporti che gli verranno passate dalla polizia e dagli inquirenti egiziani. Quindi questo non significa fare indagini, significa in realtà raccogliere degli elementi, magari per fare un quadro della situazione, ma che questo si chiami in indagini mi sembra assai difficile definirle così. Tra l'altro ricordo, per chiudere, Alberto Negri, a chi, agli ascoltatori che chiedevano, ma insomma i nostri rapporti commerciali li chiudiamo eccetera, ricordo che tra Italia e Egitto ci sono 5 miliardi di interscambio commerciale, con 40 nostre aziende presenti sul territorio egiziano, quindi mi sembra un po' complicato. È chiaro, questo è uno dei problemi, è una delle questioni che ci sono. C'è anche quel giacimento di Zohr, che è il più grosso giacimento del Mediterraneo trovato dall'ENI, però ci sono dei problemi invece politici di cui non si vuole parlare, e uno dei più grossi è quello della Libia, perché l'Egitto di Assisi è lo sponsor di questo generale Calista Haftar, che sta impedendo, in realtà volendo diventare l'uomo forte della Libia, di avere un governo di unità nazionale, perché a Tripoli lo vedono come il fumo degli occhi, e questo per esempio è un aspetto che in qualche modo ha portato delle tensioni con il Cairo, perché gli interessi dell'Italia e quelli dell'Egitto su questo punto confliggono. È uno dei tanti problemi che ci sono e che si aggiunge adesso a questo, che secondo me diventerà un problema che verrà messo sotto il tappeto in temo qualche sì. modo, temo purtroppo. Sì. Grazie Alberto Negri. Ciao, buona Alberto. Serata. Ciao a te, buona serata. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E ve le ricordo brevemente le notizie. Intanto vedo adesso un'agenzia di pochi istanti fa, terremoti, una scossa 6,4 a Taiwan. Per il momento non si registrano però rischi di tsunami. E poi le altre notizie, abbiamo appena parlato dei due arresti al Cairo per la morte di Giulio Regeni, che per il momento insomma convincono poco, ma si vedrà. C'è una task force intanto di investigatori italiani che è arrivata al Cairo e ci sarà una nuova autopsia. La salma di Giulio sarà domani a Roma. Nel PD scoppia il caso Cuffaro, Bersani minaccia di andare. andarsene. Nel frattempo il governatore De Luca della Campania è stato assolto, quindi può governare, e domani partono le primarie del centrosinistra a Milano. Storico incontro annunciato a Cuba tra il Papa e il Patriarca di Mosca, sarà il 12 febbraio appunto all'aeroporto cubano. E poi le unioni civili, c'è la pressione del Consiglio d'Europa che chiede che vi sia una legge sulle unioni civili e sulle adozioni per superare le discriminazioni. Il nuovo centrodestra contro l'asse PD Movimento 5 Stelle. E poi monito dell'ONU su Zika, consentire aborto e contraccezione. Europa 24 notte. Luca Bisaschi, 24 anni, studente in scienze politiche e relazioni internazionali, durante il suo primo Erasmus a Madrid ha deciso che poi ne avrebbe fatto un altro. La sua scelta è nata dalla consapevolezza che un'esperienza internazionale sarebbe diventata un tesoro prezioso per la sua crescita. La parte più difficile, secondo lui, è compilare i moduli per partecipare. Sentiamolo. Luca Bisaschi, 24 anni, studente in scienze politiche e relazioni internazionali, Paris Dauphine. Come è cominciata questa esperienza dell'Erasmus? Dunque, in realtà è una cosa programmata, perché questo è il mio secondo Erasmus. Quindi durante il mio primo Erasmus a Madrid nel 2013 avevo già deciso che dovevo assolutamente trovare un modo per proseguire gli studi all'estero, perlomeno aggiungere un'esperienza all'estero. Quindi mi sono già iscritto all'università, alla magistrale, con la consapevolezza di voler e tra virgolette dover passare un anno, l'ultimo anno della magistrale, il secondo all'estero. Guardando le mete disponibili nell'offerta Erasmus, sicuramente quella di Parigi era la migliore, sia dal punto di vista della città, sia dal punto di vista anche dell'università e della qualità degli studi offerti. E quindi, senza pensarci due volte, ho fatto forse la parte più difficile dell'Erasmus, che è quella di compilare le varie cose burocratiche. L'Erasmus Plus permette di fare 12 mesi di Erasmus per ciclo di laurea. Ti senti un esponente della cosiddetta generazione Erasmus? E se sì, che cos'è questa generazione Erasmus? Non mi sento un esponente della generazione Erasmus, mi sento uno studente fortunato di aver fatto l'Erasmus. Non ho ben capito cosa sia questa generazione Erasmus, perché avendo fatto due Erasmus ho visto veramente gente che hanno in comune veramente poco. Quindi c'è gente che le motivazioni che possono spingerti a fare l'Erasmus sono troppo vaste, e il semplice fatto di fare l'Erasmus non penso che sia sufficiente per categorizzare una generazione. È un'esperienza all'estero, è un'esperienza che può essere molto formativa, come, non ho problemi a dire, una perdita di tempo e uno spreco di soldi. Quindi questa generazione Erasmus, vorrei tanto che chi ha dato quel nome lì me la spiegasse bene cosa vuol dire, perché sono la stessa generazione quelli che fanno l'Erasmus, non lo so, a Barcellona e passano tutte le notti fuori, non aprono un libro tutto l'Erasmus. Sono la stessa generazione quelli che fanno un Erasmus anche da Barcellona stessa, ma studiano tutti i giorni. L'Erasmus funziona dal punto di vista di creare una generazione in senso neutro, né negativo né positivo, che abbia dei rapporti più ampli e sia più vicina agli studenti di altre nazionalità. Dal punto di vista lì funziona, perché anche se vuoi fare l'Erasmus senza fare, cioè dal punto di vista solamente del divertimento, lo fai con altri studenti di altre nazionalità. Per quanto riguarda invece l'appoggio, hai avuto appoggio dalla tua famiglia oppure è stata una decisione sofferta? No, io ho avuto un appoggio dalla mia famiglia, decisamente sono stati favorevoli, quando la scelta è completamente mia, però già da quando ero piccolo, cioè da quando ero al liceo, li decidevano veramente loro e mi mandavano ogni anno 2-3 settimane in un paese anglofono dove per imparare la lingua, quindi diciamo che già al liceo ho fatto delle brevi esperienze all'estero. E dopodiché i miei, non devo dire che mi hanno appoggiato e mi stanno appoggiando ancora economicamente, non solo economicamente, anche incoraggiandomi. Non dico che mi hanno spinto loro, perché non sarebbe vero, però sicuramente senza il loro appoggio sarebbe stato molto più difficile. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E ora non so se chiedere che tempo farà a Paolo Corazzon, il nostro meteorologo di Trebi Meteo, oppure alla marmotta meteorologa statunitense. Cosa dici, Paolo? Chi mi dice che la primavera è alle porte, ha detto. Mi piace più lei, non so cosa hai intenzione di dire tu. Ti dirò che però nel 39% dei casi ci ha azzeccato, quindi più della metà delle volte non ci ha beccato la marmotta, quindi è poco affidabile. Allora facciamo parlare il marmotto Paolo Corazzon. Esatto, guarda, si parte benino per questo weekend, perché domani tutto sommato giornata discreta in gran parte d'Italia, ancora con temperature al di sopra della media. Solo le regioni di nord-ovest, quindi Val d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia, dal pomeriggio vedranno un aumento delle nubi, in serata le prime gocce di pioggia, perché ahimè domenica arriva una perturbazione, nord Italia e regioni del medio alto Tirreno domenica sotto piogge anche piuttosto insistenti, tornerà la neve sull'arco alpino, per gli amanti dello sci è una buona notizia, al sud invece anche domenica tempo buono, ma ricordiamo Roberto che abbiamo bisogno di acqua, quindi purtroppo arriva proprio per il weekend di carnevale, ma ben vengano queste perturbazioni. E sì che ti chiamo sempre portatore sano di sole, Paolo Corazzon, buon tempo a te comunque sia. Buon tempo a tutti. Ciao Paolo, è la marmotta statunitense, una tradizione, il 2 febbraio ogni anno quando c'è questa marmotta in Pennsylvania, a seconda se fa l'ombra o non fa l'ombra, insomma la primavera è vicina o lontana. Noi ci sentiamo alle 22.